Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ho visto che si dice con grande nettezza da parte dei rappresentanti della Commissione europea, anche di qualche governo europeo, che il tema dell'Italia è il tema che l'Italia ha posto, è un tema giusto. Benissimo. Il fatto che si dica che è un tema giusto è già metà della risposta. Adesso ci vuole l'altra metà. Se il tema è giusto, ai temi giusti si risponde con i fatti. Il tempo delle parole purtroppo si è consumato. Insomma, pare quantomai lapidario Minniti, ministro dell'Interno, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, sul tema roventissimo in queste settimane, in particolare dell'emergenza migranti, no? Abbiamo raccontato in questi giorni, in particolare ieri. Stasera ritorneremo su questo tema, perché oggi continua la pressione del governo italiano sull'Unione Europea per avere appunto una gestione del flusso dei migranti condivisa tra i vari stati. È una cosa che si chiede da tanto tempo, che si continuano a sentire buone intenzioni, ma poi nel concreto, come dice Minniti, qui bisogna passare ai fatti. Per i vostri commenti sulle notizie del giorno, 349-238-6666, il numero per messaggi WhatsApp, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte. C'è anche, vi sarete accorti, un tempo pazzo che divide in due l'Italia. Oggi a Milano un po' sole, un po' grandine, nubifragio, poi vari danni in Emilia Romagna, ci sono stati anche purtroppo due morti, uno in Liguria, uno in Emilia Romagna, di un tempo che veramente è difficile prevedere per quanto riguarda noi. Poi i meteorologi li sentiremo per capire nei prossimi giorni che cosa ci aspetta. E mentre appunto c'è cattivo tempo al nord, al sud si arriva anche a temperature di 40 gradi. Ne parleremo tra poco, approfondiremo questi temi. Intanto, per iniziare, come sempre, il riassunto della giornata. L'emergenza immigrazione. Juncker si schiera con l'Italia definendola insieme alla Grecia eroica. Gentiloni all'Unione Europea dice: siamo sotto pressione e chiediamo il contributo concreto degli europei. Economia. Mattarella dal Canada. Gli opinionisti economici dice: sulla stabilità dell'Italia il governo ha messo in sicurezza le banche. Pedofilia. Il cardinale Pell è incriminato per abusi, ma lui nega tutto. Il Papa gli concede un congedo per difendersi e andrà in Australia. Iraq. L'esercito conquista le rovine della moschea simbolo a Mosul dell'ISIS. Gran Bretagna. Sarà staccata domani la spina al piccolo Charlie. Il bimbo inglese è malato e secondo i giudici ormai incurabile. I genitori volevano tentare ancora. Torino. La tragedia di Piazza San Carlo. Tra gli indagati anche la sindaca Appendino. Milano. Un vigile spara al suo superiore e poi si uccide. Una lite per i turni di lavoro. Musica. La Sony rispolvera il disco di vinile dopo 30 anni. E partiamo quindi dai migranti, dell'emergenza immigrazione. L'Unione Europea si schiera con l'Italia sul fronte dell'immigrazione, ma questa volta a sfilarsi è la Francia di Macron, che dice che i migranti economici che arrivano in Italia non sono praticamente da considerare profughi di cui farsi carico. La discussione su questo tema è rimbalzata oggi tra Bruxelles e Berlino, dove si è tenuto il summit pre-G20 dei leader europei, una discussione che non ha mancato di accendersi anche in Italia. Dopo gli sbarchi dei giorni scorsi, sono oltre 4.000 i migranti arrivati in Italia nelle ultime 24 ore, mentre continuano le operazioni di soccorso a largo delle coste libiche. Proprio all'Africa guarda il ministro dell'Interno Minniti, secondo il quale quella dell'immigrazione non è una questione da dibattito politico quotidiano, ma va affrontata con un disegno complessivo, e a farlo deve essere l'Europa. Il destino dell'Europa nei prossimi 20 anni si gioca in Africa. L'Africa è e sarà sempre di più lo specchio dell'Europa. Non vorrei che qualcuno pensasse che è soltanto lo specchio dell'Italia. Sul tema dell'immigrazione Beppe Grillo va invece all'attacco di Matteo Renzi. È stato il suo governo ad autorizzare la missione europea Triton, le cui navi sbarcano i migranti solo nei porti italiani, scrive sul suo blog il leader del Movimento 5 Stelle, che parla di accordo suicida. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E al vertice dei leader europei di Berlino si sono affrontate, come dicevamo, le principali questioni del G20 in programma la prossima settimana ad Amburgo, e tra queste anche il clima. Gli Stati Uniti sono una parte importante della G20, faremo di tutto per lavorare anche con loro senza far finta di niente. La cancelliera tedesca Merkel riassume così le attese europee in vista del summit di Amburgo della prossima settimana, in cui la Germania si troverà a gestire l'ingombrante ospite americano nella persona di Donald Trump. Diciamo un sì convinto all'accordo di Parigi sul clima, questo è un messaggio ai paesi in via di sviluppo, ha ribadito la Merkel, riecheggiando parole già pronunciate in mattinata al Bundestag. Stiamo lavorando a soluzioni alternative sul clima, ma non vorrei attivare speculazioni, ha precisato la Merkel. La questione clima non sarà l'unico dossier al centro del summit, né quello più divisivo. Anche il commercio si annuncia una questione complicata tra neoprotezionismo americano e spinte francesi per lo scudo sui settori strategici europei. Infine la lotta al terrorismo, ma qui le differenze potrebbero essere più russo-americane. Tra l'altro è in forte dubbio un faccia a faccia Trump-Putin ad Amburgo. Les risques internationaux ont rarement été aussi critiques. Il G20 affronterà le grandi sfide dei nostri tempi, i rischi non sono mai stati così grandi, l'Europa deve essere coerente, ha affermato il presidente francese Macron, che ha sposato la linea Merkel. Lavoriamo con gli Stati Uniti, abbiamo bisogno di loro, anche se ci sono disaccordi su clima e commercio. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo all'economia con il presidente Sergio Mattarella, che ad alcuni opinionisti economici canadesi, perché era in Canada, che gli chiedevano della stabilità dell'Italia, ha detto che nei giorni scorsi il governo ha messo in sicurezza il sistema bancario italiano. Il governo con un intervento che ha riguardato le ultime due banche in difficoltà ha chiuso il cerchio di mettere in sicurezza il sistema bancario italiano. Un impegno finanziario dello Stato minore, anche molto minore di quello che hanno sostenuto alcuni altri paesi d'Europa. In Italia sta crescendo il ritmo della ripresa economica. Il sistema bancario può adesso accompagnare questa ripresa e noi siamo fiduciosi che questa cresca, anche per effetto delle riforme. E ora il tema della pedofilia, con l'incriminazione del cardinale Pell da parte della giustizia australiana. L'alto prelato è accusato di diversi abusi. There's been relentless character assassination. Il cardinale George Pell, prefetto per gli affari economici del Vaticano, si dichiara innocente rispetto alle accuse di reati sessuali su minori per cui è stato incriminato. Parlando in Vaticano, Pell ha detto di essere innocente, di non vedere l'ora di essere ascoltato in tribunale. Le accuse aggiunte sono false, l'intera ipotesi di abusi sessuali mi ripugna. Il cardinale australiano è ora atteso a Melbourne il 18 luglio per rispondere ai giudici. Poche ore prima, dal sud dell'Australia, era intervenuto Sean Patton, portavoce della Polizia dello Stato di Victoria, che in un breve intervento, giunto dopo che da giorni circolavano indiscrezioni sulla vicenda, ha spiegato che le accuse si riferiscono a episodi accaduti nei primi anni 70, quando dagli studi in Europa Pell rientra nella sua Ballarat, una cittadina nord-ovest di Melbourne, dove assume diversi incarichi in alcune parrocchie della diocesi. Il Papa, in un comunicato, spiega che nel pieno rispetto delle leggi civili e riconoscendo l'importanza che il processo possa svolgersi in modo giusto, ha concesso al prelato un periodo di congedo per potersi difendere. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Estero, con un'altra vicenda dolorosa che fa molto discutere, saranno staccati domani i macchinari che tengono in vita il piccolo Charlie, bimbo di 10 mesi, ricoverato a Londra per una rara malattia genetica che secondo i medici è incurabile e lo fa soffrire troppo. I suoi genitori hanno perso quindi la battaglia legale arrivata fino alla Corte Europea dei Diritti Umani per portare a proprie spese il bambino negli Stati Uniti e cercare di sottoporlo a una cura sperimentale. Dunque, contro il loro parere, ma per decisione dei giudici, domani appunto sarà staccata la spina. E restiamo all'estero. In Iraq le forze lealiste irachene hanno occupato Mosul, le rovine della storica moschea al-Nuri, distrutta alcuni giorni fa, da dove nel luglio del 2014 Abu al-Baghdadi proclamò la rinascita del sedicente califfato. La TV di Stato irachena dice: l'ISIS è finito. La vittoria contro ISIS, l'annuncio al mondo. Tutto avviene nella città irachena di Mosul, roccaforte del califfato nel nord dell'Iraq. I combattimenti iniziati lo scorso ottobre ora sono al gran finale, con le forze lealiste che occupano le rovine della storica moschea al-Nuri, distrutta alcuni giorni fa. Ma era lì che nel luglio del 2014 al-Baghdadi proclamò la rinascita del califfato. Mosul torna dunque sotto il controllo delle forze speciali. Restano però decine di jihadisti sparsi nella città vecchia e ora si teme la rappresaglia. Sempre più più con le spalle al muro. Intanto lo Stato Islamico, un territorio a cavallo tra Iraq e Siria, perde in 3 anni il 60% del territorio che ha occupato e l'80% delle sue entrate. Uno Stato Islamico autoproclamatosi e che lascerà ora aperte tante questioni. La prima, forse più urgente, riguarda le migliaia di bambini e ragazzini, soprattutto iracheni e siriani, trasformati in combattenti addestrati ad uccidere a soli 8 anni. Solo a gennaio di quest'anno 51 bambini si sono fatti esplodere a Mosul in Iraq e molti altri potrebbero farlo durante la battaglia di Raqqa, che deve ancora entrare nella sua fase più violenta. La città è ormai quasi completamente circondata dalle forze curdo-siriane sostenute dagli Stati Uniti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Serbia, Anna Brambić, lesbica dichiarata prima donna nella storia del paese, della Serbia ex jugoslava, a diventare primo ministro, ha ottenuto oggi la fiducia del Parlamento con 157 voti a favore e 55 contrari. A conferire l'incarico, a formare il nuovo governo, era stato a metà giugno il presidente Vučić, sollevando forti critiche da parte dell'opposizione. Anna Brambić ha promesso che l'integrazione della Serbia nell'Unione Europea sarà una delle priorità del suo governo. E adesso in Italia, a Torino, importante novità nell'inchiesta per la calca di Piazza San Carlo. Sono infatti saliti a 3 gli indagati per quanto accaduto la sera del 3 giugno nella finale di Champions League, e tra loro c'è, tra gli indagati, la sindaca Chiara Appendino. La prima cittadina in numerose denunce presentate dai feriti è indicata come responsabile della mancanza di sicurezza nella gestione dell'evento, che si è concluso con la morte di una donna e il ferimento di un numero impressionante di tifosi. Il presidente del Consiglio Comunale di Torino, a proposito di questa indagine, ha detto: Fabio Versace, siamo tranquilli, continuiamo a fare il nostro lavoro e quello per cui siamo stati eletti. Non commento atti che non conosco e di cui non abbiamo alcuna notizia. Sui fatti di Piazza San Carlo arriva una nota della Procura Generale di Torino dopo la notizia del coinvolgimento nelle indagini della sindaca della città, Chiara Appendino. Il procuratore Spataro dice essenzialmente 2 cose. La Procura non ha ancora autonomamente disposto, a seguito delle indagini in corso, alcuna iscrizione nel registro degli indagati, né per le lesioni a danno di oltre 1500 persone, né per la morte di una delle donne rimaste ferite. Il coinvolgimento della prima cittadina dunque è un atto dovuto, chiarisce la Procura in presenza di e denunce. Il procuratore capo poi aggiunge che non sono previsti interrogatori di persone con cariche pubbliche, caso in cui sarebbe necessario recapitare un'informazione di garanzia all'Appendino. La ricostruzione dei fatti, dunque soprattutto la definizione della catena di comando per accertare eventuali responsabilità in tema di sicurezza, è ancora in corso. Il Movimento 5 Stelle intanto ha espresso piena fiducia nell'azione della magistratura, ribadendo la necessità che venga fatta più ampia chiarezza sui fatti. Ribadisce così un post sulla pagina Facebook del Movimento di Torino, che rilancia il comunicato della Procura. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. E da Torino a Milano, ha sparato al suo superiore uccidendolo e poi si è ammazzato. È successo oggi pomeriggio negli uffici del comune di San Donato Milanese, vicino a Milano. L'agente, un vigile urbano, ha sparato al petto del vicecomandante e poi si è puntato la pistola alla testa e si è ucciso. Secondo le prime informazioni, l'origine di questo gesto ci potrebbe essere attriti sul posto di lavoro. Si parla di una discussione relativa ai turni. Per chiudere un po' in leggerezza, parliamo di musica. Per la prima volta negli ultimi 30 anni la Sony riprenderà a produrre i dischi in vinile, questo per tutti gli appassionati e anche per quelli magari molto giovani che non li hanno conosciuti, grazie alla riacquistata popolarità che fa del celebre formato musicale una scelta attualmente sempre più richiesta. L'azienda giapponese aveva interrotto la fabbricazione dei vecchi 33-45 giri nel 1989 sulla scia dell'introduzione della successiva poi evoluzione dei compact disc, scegliendo di esternalizzare il business dei vecchi LP a una società giapponese. La filiale musicale della Sony, la Sony Music Entertainment, ha appena installato una stampa per dischi in vinile nello stabilimento nel Giappone centrale, insieme a amplificatori necessari per la riproduzione del suono nello studio di registrazione di Tokyo. Secondo l'associazione discografica giapponese, la domanda per il vinile è cresciuta di 8 volte negli ultimi 6 anni. Le cose nostalgiche. Bene, per il momento, allora, questo è il riassunto della giornata, dei fatti principali. Adesso c'è la viabilità. Voi continuate a scrivere i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che lì per voi giorno e notte, oppure al numero per messaggio WhatsApp, che è 349-238-6666. Dice per esempio Francesco da Piacenza: quante decine, centinaia di migliaia di migranti africani dovremo ancora accogliere e mantenere prima che si capisca che non è così che si risolvono i problemi dell'Africa, anche se probabilmente, Francesco, ancora non l'ha capito bene nessuno come si risolvono i problemi dell'Africa. Poi invece quest'altro messaggio che dice Walter, scrive: intanto il buon Macron, quello di En Marche, di Liberté, Égalité, Fraternité, dà il 2 di picche all'Italia per l'aiuto sull'emergenza migranti. In effetti, a tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Avete sentito la sintesi delle notizie, come sempre, all'inizio di Effetto Notte. Alle 21 accendete puntualmente e poi in 60 minuti vi racconto le notizie principali e approfondisco alcuni temi con gli ospiti. Cominceremo tra pochissimo, tornando a parlare appunto di dell'emergenza migrazione. Intanto Clotilde scrive: più che lapidario, Minniti ansiogeno, comunque non ho fiducia che l'Europa si farà carico di alcunché. Il grande osannato Macron, scrive anche Clotilde, si sta manifestando per quello che è. 349-238-6666 per i vostri messaggi, commenti, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio. Allora vi ricordo intanto anche i fatti principali, se non avete acceso puntualmente alle 21. Con il Presidente del Consiglio Gentiloni che fa pressing sull'Unione Europea e dice: abbiamo bisogno di un aiuto concreto sui migranti. Juncker apre, dice che l'Italia insieme alla Grecia è eroica, ma Macron frena e fa dei distinguo sui migranti. Il Cardinale Pell, incriminato per abusi in Australia, lui nega tutto, il Papa gli concede un congedo per difendersi, appunto andrà in Australia. Renzi contro le polemiche, Magrillo lo incalza sui migranti, intanto standing ovation per Prodi al congresso della CISL, dove afferma: Prodi contro la disuguaglianza nel lavoro, serve la necessità della rinascita della politica. E poi, per quanto riguarda l'Iraq, l'esercito conquista le rovine della moschea simbolo a Mosul del sedicente califfato, la nascita del sedicente califfato, e dice la TV nazionale dell'Iraq: il falso stato dell'ISIS è finalmente finito. E poi Mattarella, che dice dal Canada, gli opinionisti economici canadesi, che il governo italiano ha messo in sicurezza le banche. Questa brutta storia di cronaca nera a San Donato vicino Milano, con un vigile urbano che ha ucciso il suo superiore, poi si è suicidato, probabilmente un attrito per motivi di lavoro. E poi questa notizia che arriva dalla Gran Bretagna: domani verrà staccata la spina al piccolo Charlie, una vicenda che si discute da molto tempo. Dopo il via libera della Corte Europea dei Diritti Umani, i giudici domani staccheranno la spina contro la volontà dei genitori. E torniamo naturalmente sull'emergenza immigrazione, di cui abbiamo parlato molto ieri sera qui a Effetto Notte, perché è sicuramente un argomento, un tema che sta creando una certa apprensione in Italia, perché gli sbarchi naturalmente con il bel tempo sono sempre di più. Dicevamo proprio ieri che nelle ultime 48 ore, dagli ultimi dati che arrivavano da Bruxelles, gli sbarchi erano stati 12.000, pensate, 12.000 migranti da 22 navi in 48 ore. E poi anche oggi a Salerno sono sbarcati circa 1.300 migranti da una nave spagnola, quando ne erano consentiti circa la metà. Quindi insomma, la situazione si fa sempre più pressante, più preoccupante. E dicevamo già ieri che è stata presa anche un'iniziativa formale da parte del governo italiano, che ha mandato il rappresentante permanente italiano nell'Unione Europea, Massari, a incontrare Avramopoulos, che è il commissario europeo per l'immigrazione, dicendogli insomma che in Italia la situazione sta diventando insostenibile. Avramopoulos ha riconosciuto effettivamente che la situazione è sempre più insostenibile, dicendo: agli stati mostrino solidarietà all'Italia, non si lasci un pugno di paesi affrontare questo problema. Il luogo per discuterne sarà la riunione informale dei ministri degli interni a Tallinn la settimana prossima. Però nel frattempo che cosa si fa? Gentiloni appunto già ieri diceva che l'Unione Europea non può più voltare la faccia dall'altra parte, è intervenuto anche Mattarella, che di solito è abbastanza pacato e anche silenzioso se vogliamo, ma ha detto: se la situazione continua a essere così, se i flussi sono questi, diventa veramente un fenomeno ingestibile. Oggi tra l'altro Gentiloni era a questa riunione a Berlino, che è vertice preparatorio al G20, e ha parlato anche ieri sera, anche ne abbiamo parlato con Effetto Notte di questa proposta che ha espresso il governo italiano per cominciare insomma, a mettere un argine, perché al di là, come diceva Gentiloni, che siamo un paese accogliente, pacifico e aperto, chiaramente a un certo punto diciamo la misura può essere colma per forza, volenti o nolenti, insomma. E la proposta del governo italiano ieri era quella di provare a bloccare le navi che vengono dalla Libia con i profughi che battano bandiera straniera, quindi non bandiera italiana. Ieri era posta la questione, ci avevamo posto il problema con un esperto di diritto dell'Unione Europea, che è Francesco Munari, professore universitario, chiedendogli: ma questa cosa è effettivamente da un punto di vista legale praticabile? Sentiamo giusto un passaggio di Munari, che era ieri qui a Effetto Notte. Sì, dal punto di vista delle norme di diritto internazionale, certamente gli stati non sono obbligati ad accettare sul loro territorio qualunque tipo di nave straniera che scarichi persone. C'è un principio abbastanza solido, è stato anche riaffermato all'ultimo G7, del diritto degli stati di controllare le proprie frontiere. C'è da distinguere se la situazione di emergenza riguarda persone in pericolo di vita in mare e nelle acque territoriali, oppure persone che vengono trasportate da navi che li hanno raccolti. Allora, in questo secondo caso, ad esempio le navi delle ONG o di altri stati, navi militari e quant'altro, l'Italia probabilmente ha tutti i diritti di non consentire lo sbarco delle persone. Si può immaginare che per singoli casi le persone possano essere, che sono a bordo di una nave, siano in pericolo di vita, e allora in questo caso magari se ne possono prelevare quelle che effettivamente sono in pericolo di vita, ma nel momento in cui volontariamente una nave raccoglie migranti, il comandante della nave è la prima persona che si assume la responsabilità poi di garantire il cosiddetto safe place dal punto di vista delle norme di diritto internazionale. E dal punto di vista quindi del diritto internazionale, del diritto marittimo, il professor Munari è stato piuttosto chiaro sulla praticabilità di questa ipotesi, di questa iniziativa italiana, tutta ancora da verificare, da vedere, nel senso che potrebbe essere stato, dicevo già ieri, così un alzare la posta da parte del governo italiano per sollecitare ulteriormente, come sta facendo da tempo, l'Unione Europea. Oggi vi dicevo che Gentiloni era a questo vertice preparatorio a Berlino del G20 che sarà a Berlino. Ha detto: siamo sotto pressione, chiediamo il contributo concreto degli europei. Allora sentiamo anche Gentiloni. Un paese che non si è mai sottratto ai propri impegni per quanto riguarda il soccorso in mare, l'accoglienza umanitaria, e che non intende sottrarsi a questi impegni in futuro, ma chiede di discutere del ruolo delle organizzazioni non governative, della missione di Frontex. Ringrazio tutti i colleghi leader europei per la solidarietà e la comprensione di queste difficoltà che dobbiamo affrontare in comune, e rispetto alle quali dalla Commissione europea è venuto sempre, di nuovo questa mattina, una conferma di un impegno notevole. E infatti il Presidente della Commissione europea Juncker si è schierato con l'Italia oggi, definendola insieme alla Grecia eroica addirittura, però insomma ci teniamo a essere eroi fino a un certo punto, nel senso che qui davvero bisogna che tutti gli stati, come chiediamo da tempo, siano solidali, che ci sia una redistribuzione, anche perché poi c'è anche il problema dell'integrazione, tante persone così non rischiano poi di andare un po' fuori controllo al di là della loro volontà. Allora Angela Merkel, cancelliera tedesca, si è detta anche lei solidale, così Rajoy, premier spagnolo. Macron, il neo presidente francese, ha detto: noi sosteniamo l'Italia e la Francia deve fare la sua parte sull'asilo di persone che vogliono rifugio. Poi, ha detto Macron, c'è il problema di rifugiati economici e questo non è un tema nuovo. L'80% dei migranti che arrivano in Italia, ha detto Macron, sono migranti economici, non dobbiamo confondere. Intanto comincia anche la polemica politica con Grillo che dice: questo disastro è dovuto a Renzi. Ma su questo vorrei coinvolgere Luca Ricolfi, noto sociologo, docente di analisi dei dati e autore di molti saggi, l'ultimo è Sinistra e Popolo, il conflitto politico nell'era dei populismi. Caro Luca, buonasera. Buonasera, eccoci qua. Allora, abbiamo capito che la situazione è difficile, addirittura Minniti, dicevo, due giorni fa era tornato d'urgenza in Italia dopo che era sulla strada per Washington per impegni istituzionali, quindi evidentemente è un momento cruciale questo per capire come andare avanti su questo fenomeno. Beh sì, è un momento cruciale, ma essenzialmente perché ci sono state le elezioni amministrative, cioè i numeri sono spaventosi da anni, Sono da 3 anni che gli sbarchi sono troppi, sono incontrollati e costano un sacco di soldi allo Stato italiano. Adesso il fatto nuovo è che ce n'è un po' di più dell'anno scorso, cioè ancora di più che l'anno scorso, non è che ce ne sono il doppio, il triplo, ce n'è un po' di più, e però è arrivato un segnale da parte dell'elettorato per cui c'è un certo risveglio delle forze politiche. Quindi tu dici, Luca Ricolfi, non è tanto perché c'è maggiore pressione con gli sbarchi, ma perché con le elezioni amministrative che ci sono appena state e le altre politiche che ci saranno non in tempi lunghissimi, si capisce che questo tema è importante, è fondamentale. Diciamo, quello che dovremmo consenso o non consenso. Come mai, essendo la situazione effettivamente drammatica, io non dico che non lo sia, si è dovuto aspettare questo appuntamento elettorale per accorgersene, perché la situazione era altrettanto preoccupante l'anno scorso e 2 anni fa. Cioè, è dal 2013 che gli sbarchi stanno aumentando e sono su livelli non fisiologici. Tenete conto che il numero di sbarchi è stato per anni, per un decennio, nell'ordine di 5.000, 10.000, 20.000. L'ultimo anno normale, relativamente normale, è stato l'anno in cui governava Monti. Da quell'anno in poi sono 20 volte di più. Cioè, è proprio un altro ordine di grandezza. A me quello che stupisce non è che adesso si strilli, ma che si strilli solo adesso. Ma il problema, Luca Ricolfi, è come si affronta? Cioè, questa è l'ipotesi, si diceva, di bloccare queste navi che arrivano dalla Libia che non abbiano bandiera italiana, no? Con a bordo dei profughi. Come si fa? Al di là che possa essere legale, però ci si mette di traverso con le navi, si può ammettere che forse finora non è stato preso, non è stato valutato come andava valutato con la determinazione necessaria, anche perché forse nessuno sa bene come fare? Ma io penso che prima di decidere come fare bisogna capire un po' i meccanismi, descriverli con una certa accuratezza. Ora, i dati di base della situazione sono sostanzialmente questi, a mio parere. Primo, quello che ha detto Macron, cioè la maggior parte di coloro che sbarcano in Italia non sono richiedenti asilo che abbiano diritto all'asilo, ma sono migranti economici, cioè gente che vuole giustamente dal proprio punto di vista stare meglio che nel proprio paese e non hanno assolutamente diritto. Questo è il primo punto, cioè il grosso di quelli che arrivano andrebbero rimandati a casa. Secondo, noi non siamo in grado di rimandarli a casa. Terzo, e questo è un fatto, quindi ci sono dei morti tutti gli anni, parecchi, migliaia, sì. E non è chiaro se con un'azione con meno generosità ci sarebbero meno morti o più morti, perché qui si dimentica che esiste un meccanismo che è quello dell'azzardo morale, che fa sì che ci si metta nelle condizioni di essere aiutati. Ora, quando si è fatta questa polemica dei taxi, no? del trasporto da parte delle ONG in Italia di persone prelevate piuttosto vicine alle coste dell'Africa, si è descritto un classico meccanismo di azzardo morale, cioè la gente viene messa sui barconi con un abbattimento enorme dei costi per i trafficanti di uomini, perché questi sanno che allontanati di qualche miglio marino dalla costa africana c'è chi in molti casi, non sempre disgraziatamente, è in grado di raccoglierli e portarli a casa, questo a casa in Europa intendo. Questo meccanismo è un meccanismo che ha due effetti, cioè può darsi che addirittura aumenti il numero di morti, perché la gente viene indotta a partire con delle imbarcazioni rischiosissime. E poi c'è un enorme abbattimento dei costi di produzione dei trafficanti d'uomini, cioè una volta chi portava la gente in Sicilia doveva cercare in qualche modo di assicurare il viaggio fino alle nostre coste, con dei costi elevati. Adesso i costi per i poveretti che li pagano, che devono sborsare dei soldi, restano sempre alti, ma i profitti sono enormemente aumentati, perché basta prendere qualche centinaio di persone e portarle a qualche miglio lontano dall'Africa. Allora, questa è la situazione di base, per cui sulla base di questa situazione, di questi dati di fondo, allora possiamo cercare di rispondere alla tua domanda, se si può fare qualcosa, però bisogna sapere che la situazione è questa, perché se la situazione viene descritta come viene descritta normalmente, cioè persone che rischiano di morire e noi dobbiamo andare ad aiutare, e non si descrive il meccanismo per cui c'è un'oliata industria che mette queste condizioni, queste persone nella condizione di chiedere aiuto, se non si descrive questo non verremo mai a capo della faccenda. E questo potrebbe essere un primo passo, poi bisogna vedere effettivamente se c'è una soluzione concreta. Senti, poi il ministro Minniti, il ministro dell'Interno, oggi aveva detto anche appunto di non fare sempre questa equazione immigrati, terrorismo, però diceva c'è un limite all'integrazione quando perdiamo un po' il controllo, insomma, dei numeri delle persone che ci sono, e questo io dico, come ministro dell'Interno devo anche assicurare la sicurezza, no, dei cittadini. A proposito di sicurezza, tu avevi dei dati anche. Sì, ma allora qui ci sono due problemi che la gente tende a confondere, ma che secondo me vanno tenuti abbastanza distinti. Uno è il problema del terrorismo. Questo secondo me non è un argomento fortissimo, anche se viene usato. L'argomento invece difendibile per chi è ostile a questi flussi migratori è quello del tasso di criminalità. Noi abbiamo un tasso di criminalità in Europa che mediamente è più di 4 volte da parte degli stranieri rispetto a quello dei nativi, cioè se un italiano ha una certa probabilità di commettere un crimine, lo straniero ce l'ha quadrupla. Tra l'altro non è esatto quello che sto dicendo, perché in realtà riguarda l'Europa, ma in Italia il rapporto è ancora più alto, in Italia è più di 6, cioè gli stranieri hanno un tasso di criminalità che è 6 volte quello degli italiani. Allora questo è chiaro che è un elemento di allarme sociale molto serio ed è del tutto giustificato. Tra l'altro è un fenomeno che colpisce soprattutto i ceti popolari, perché è nei quartieri degradati, nelle periferie, nelle situazioni di insicurezza, urbanisticamente difficili che abbiamo i tassi di criminalità più alti. E poi c'è la specializzazione del crimine, cioè per dire i furti sono quasi interamente compiuti in Italia da personale dell'est, almeno questo a nord dicono i poliziotti. Quindi Luca Ricolfi, adesso aspettiamo la settimana prossima questo famoso vertice, perché abbiamo visti tanti di vertici con al centro il tema dell'immigrazione, e vediamo che cosa ne verrà fuori. L'Italia sta facendo un po' più pressing, diciamo è una questione di accoglienza, di solidarietà da una parte, ma anche di sicurezza nostra e di limiti e di capacità, insomma, di ricevere ancora tante persone in difficoltà. Il problema è molto semplice, almeno da formulare. L'Europa mostrerà effettivamente solidarietà verso l'Italia se, anziché offrirci soldi, come probabilmente succederà, diranno bene, tutte le ONG che vogliono salvare degli immigrati li portano in Spagna, in Francia, in Svezia. Vedremo. Vedremo appunto se questa sarà la strada, se sarà effettivamente fattibile. Grazie intanto a Luca Ricolfi. Grazie. Ciao Luca, grazie, buon lavoro. Oh, e prima di lasciarci brevemente, guardavo ancora i vostri messaggi. Walter dice: l'Italia è il ventre molle dell'Europa, protocolli e trattati internazionali, ma quando si viene al dunque non vengono rispettati, dice Walter. Poi due messaggi, uno proprio il contrario dell'altro. Allora scrive Ulisse: la colpa è anche di giornalisti sinistrorsi come lei, ormai è un fenomeno epocale anche per colpa sua. Prendo la colpa del fenomeno epocale, quando invece un altro ascoltatore, vediamo se lo ritrovo, lo vedevo mentre scorrevano i messaggi, invitate sempre persone di destra, quindi qualcuno accusa di essere sinistrorsi, qualcun altro accusa di invitare sempre ospiti di destra, quindi anche per questa sera la par condicio assicurata. Ci potiamo sentire tra pochissimo, pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure 349-238-6666 il numero per messaggi e WhatsApp. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Se ogni sera volete essere aggiornati sui fatti principali che sono successi in Italia e all'estero, volete sentire gli approfondimenti con gli ospiti per capire un po' meglio certi argomenti, tra pochissimo torneremo su un argomento che riguarda l'estero, una piccola isola che sta per vivere un anniversario importante. Intanto vi do anche una notizia che è arrivata poco fa, da Parigi, un uomo che ha cercato di investire la folla fuori da una moschea è stato arrestato. Guardo più nel dettaglio: un uomo che ha tentato di investire con un fuoristrada una piccola folla di persone davanti a una moschea di Créteil nella banlieue parigina, nella periferia parigina, lo riferisce la prefettura di polizia di Parigi, sottolineando che non ci sono feriti e che l'uomo poi è fuggito, però è stato arrestato poco dopo. Secondo il quotidiano Le Parisien, l'uomo di origine armena ha spiegato il suo gesto come una vendetta per il Bataclan e gli attacchi agli Champs-Élysées. È stato fermato dalla polizia a casa sua, non ha opposto alcuna resistenza, non è risultato positivo né a droghe né ad alcol, quello che è quello che si sa finora. Fra poco vi ricordo anche le altre notizie, guardavo ancora i vostri messaggi, per esempio questo sms al 349-238-6666, poi potete scrivere i vostri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Dice: diciamolo chiaro, alla migrazione non c'è soluzione, l'Europa dice che ci avvicina, ma poi sono fatti nostri, almeno per il momento finora è stato così. E poi Lidia, a proposito dell'intervento di Macron oggi, che ha detto, il presidente francese, ne parlavamo poco fa, no? Che ha detto: sì, noi siamo solidali con l'Italia per quanto riguarda i profughi, l'emergenza immigrazione, però siccome l'80% dei migranti in Italia, che arrivano in Italia, sono migranti economici, noi non dobbiamo farcene carico. Allora Lidia scrive: in altre parole, è giusto che i migranti economici muoiano nei loro paesi senza rompere le scatole all'Europa? Si chiede Lidia con mille punti interrogativi ed esclamativi. Vi ricordo i fatti principali, che sono appunto l'emergenza immigrazione, con Juncker, presidente della Commissione Europea, che si schiera con l'Italia definendola insieme alla Grecia eroica. Però Gentiloni fa pressing all'Unione Europea e dice: siamo sotto pressione e chiediamo un contributo concreto agli europei. Economia, Mattarella dal Canada agli opinionisti economici dice sulla stabilità dell'Italia: il governo ha messo in sicurezza le banche. Pedofilia, il cardinale Pell incriminato per abusi in Australia, lui nega tutto, il Papa gli concede un congedo per difendersi. E poi da Parigi avete sentito: cerca di investire una folla fuori dalla moschea, arrestato, per fortuna non ci sono feriti. In Iraq l'esercito conquista le rovine della moschea, simbolo a Mosul dell'ISIS. E poi la Gran Bretagna: sarà staccata domani la spina del piccolo Charlie, il bimbo inglese malato e che secondo i giudici è ormai incurabile, i genitori volevano tentare ancora. E a Torino la tragedia di Piazza San Carlo, tra gli indagati anche la sindaca Appendino. Musica, la Sony rispolvera il disco di vinile dopo 30 anni. Hong Kong, se ne parla poco, ma dal 1 luglio, quindi tra due giorni, celebra un anniversario importante, ovvero i 20 anni di ritorno sotto la sovranità cinese. Nel 1997, infatti, dopo oltre un secolo di dominazione coloniale britannica, l'ultimo governatore ha passato il testimone alla Cina, sancendo quindi il definitivo ritorno dell'isola sotto controllo di Pechino. A questa neonata regione amministrativa speciale è stato applicato già allora il famoso modello One Country, Two Systems, nel senso che comunque ha mantenuto rispetto alla Cina, diciamo, una sua tradizione, una sua autonomia, certe sue libertà. Però sicuramente in 20 anni Hong Kong è molto cambiata da un punto di vista politico e dei diritti umani. Sentiremo quanto. Intanto il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Hong Kong e dice: è sempre stato un territorio nel mio cuore. Ne parliamo con Nicola Casarini, responsabile dell'area Asia dell'OIAI, l'Istituto di Affari Internazionali. Casarini, buonasera. Buonasera a voi. Quindi, anniversario che, diciamo, Hong Kong celebra con felicità o meno? Beh, lo celebra da una parte con felicità per quanti appoggiano l'integrazione di Hong Kong alla Cina, ma anche con timore per tutte quelle proteste e per quei giovani soprattutto che vengono arrestati in queste ore, hanno cominciato gli arresti mercoledì, perché questi giovani non si riconoscono nella Cina continentale, nella Cina madre, e vogliono un Hong Kong libera e democratica. Per cui ecco, una celebrazione chiaroscura. Casarini, comunque, parlava dei giovani e sono loro che hanno fatto la famosa rivoluzione degli ombrelli, no? Nel 2014, quindi 3 anni fa, perché volevano poter avere la libertà di eleggere loro i loro dirigenti. Così non è stato, quella battaglia poi è stata persa. Esatto, non è stato, ed è questa un po' la battaglia. Allora, la Cina, la seconda economia al mondo, si gioca su Hong Kong la sua immagine internazionale. Come dicevo prima, c'è gente che è contenta del fatto che Hong Kong sia sempre più vicina alla Cina madre, la Cina continentale, perché hanno fatto affari in questi anni. C'è un'altra parte della popolazione di Hong Kong, che sono soprattutto i giovani, quelle classi sociali che vogliono la libertà, ma che hanno anche visto le diseguaglianze sociali crescere. È un po' come quello che sta succedendo anche nell'Occidente. Hong Kong è un paese occidentale, anche se in Asia orientale. Per cui questi giovani hanno innescato la rivolta un po' generazionale di giovani che vogliono accedere a un benessere che è sempre più difficile anche per loro a Hong Kong, con il discorso delle libertà e della democrazia. Per cui questa unione di fattori ha fatto sì che c'è una intera generazione di giovani a Hong Kong che si oppone al governo di Pechino, ma anche ai loro genitori e ai loro nonni, che in larga parte invece sono stati contenti quando c'è stato il ritorno di Hong Kong alla madrepatria cinese. Quindi è un doppio, una doppia frattura. Ma Casarini, quindi allora, se dovessimo fare un bilancio in questi 20 anni, è più Hong Kong che ha influenzato con la sua, diciamo, con il suo stile di vita un po' occidentale, con la sua libertà, con la sua autonomia, con i suoi gusti, la Cina, o più la Cina alla fine che ha dato la sua impronta di nuovo a Hong Kong? Purtroppo Hong Kong non è riuscita affatto a imporsi sul resto della Cina, perché altrimenti avremmo una Cina più libera e democratica. Quello che è successo è che la Cina a Pechino ha cercato, in qualche modo ci è riuscita, ma sta cercando sempre di più di imporsi su Hong Kong. Ora però qui ci sono dei limiti, nel senso che Pechino rischia, se esagera troppo, di perdere la carta di Hong Kong, che è quella sua carta che gioca a livello internazionale, perché è un hub finanziario, è ancora un esempio di come una Cina comunista può integrare un sistema libero come quello di Hong Kong. Per cui Pechino sta cercando sempre di più di imporre il suo modello su Hong Kong, conscio dei limiti che questo può avere, e c'è una parte della popolazione di Hong Kong, come stiamo vedendo in questi giorni, in queste ore, che sta resistendo, ed è una battaglia che continuerà, ed è una battaglia che segnerà il futuro della Cina e forse anche del mondo, perché come Pechino gestirà Hong Kong nei prossimi anni darà un messaggio all'Asia, ma darà un messaggio anche all'Occidente di quello che sarà la Cina domani. Uno sguardo volto al futuro, non so se più con ottimismo o con pessimismo, che dice Casarini? Allora, questa è una buonissima domanda quella che lei fa, e speriamo che questo, come diceva lei prima, One Country Two System abbia successo, e che comunque la Cina comunista di Pechino riesca a integrare, mantenere Hong Kong parte della Cina continentale, garantendo le libertà. Però c'è un grosso dubbio, e dipende molto da come evolverà il discorso all'interno del Partito Comunista Cinese quest'autunno. Se l'ala più conservatrice del partito prenderà il sopravvento, come molti analisti internazionali si aspettano, questo si ripercuoterà anche su Hong Kong, e ci potrebbe essere maggiore chiusura, maggiore limitazione delle libertà anche su Hong Kong. E questo purtroppo è nelle mani del Partito Comunista Cinese e delle discussioni che si apriranno in autunno con il 19° congresso. Attendiamo allora quel congresso. Grazie a Nicola Casarini dello IAI. Grazie, buona Grazie serata. Grazie a voi. Grazie, viabilità. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi, sto leggendo i vostri messaggi, tanti sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma soprattutto questa sera al 349-238-6666, dice questo ascoltatore: le migrazioni sono state programmate insieme alla creazione dell'Unione Europea, una volta tolte le frontiere avremo subito l'invasione e la conseguente perdita di sovranità democratica a vantaggio di uno Stato autoritario, come sta per avvenire in Unione Europea, o fascismo parisfono, insomma, diciamo, questo è il filone del complottismo. Adesso invece parliamo tra pochissimo del meteo, di questo tempo pazzo, di cosa succederà nei prossimi giorni. Intanto vi ricordo velocemente che le notizie principali sono questo tentativo a Parigi di un uomo di origine armena di investire una piccola folla fuori da una moschea nella periferia parigina. Per fortuna non c'è nessun ferito e l'uomo è stato arrestato, ha detto che voleva vendicarsi per gli attentati del Bataclan e gli attacchi ai Champs-Élysées. E poi l'emergenza immigrazione, di cui abbiamo parlato e sulla quale continuate a mandare i vostri messaggi, con Juncker della Commissione Europea che si è schierato con l'Italia definendola insieme alla Grecia eroica, e Gentiloni che all'Unione Europea chiede aiuti più concreti. Economia, Mattarella dal Canada, gli opinionisti economici, dice sulla stabilità dell'Italia: il governo ha messo in sicurezza le banche. Un'accusa pesante di pedofilia al cardinale Pell da parte dell'Australia, incriminato di diversi abusi, lui nega tutto, il Papa però gli concede un congedo per difendersi. E poi in Gran Bretagna sarà staccata domani la spina al piccolo Charlie, il bimbo inglese malato, secondo i giudici è ormai incurabile, i genitori volevano tentare ancora. Tempo pazzo, dicevo, perché questa ondata di maltempo ha colpito gran parte del nord Italia, ha provocato danni ingenti in Friuli, nel Ravennate, a Ravenna 20, ci sono stati 20 a oltre 90 chilometri che hanno provocato danni e ferito lievemente una ventina di persone. Poi nella vicina Comacchio, Ferrara, quindi sempre in Emilia Romagna, il maltempo ha fatto una vittima, è morto un ciclista di 70 anni colpito ieri sera da un platano secolare. Una persona morta anche in Liguria, è annegata in mare a Savona. Altre tre sono state soccorse proprio per un pelo dalla capitaneria di porto, dai vigili del fuoco, mentre facevano il bagno, nonostante insomma il mare non fosse nelle migliori condizioni. E a Ravenna ha provocato 1,5 milioni di danni alle opere pubbliche e dicevamo circa 20 feriti. Quindi oggi, anche guardando soltanto Milano, c'era il sole stamattina, poi dopo è venuto un diluvio, una grandinata terribile, poi di nuovo il sole, poi di nuovo il grigio, e intanto sud con delle temperature altissime. Ma ovviamente può andare molto più del dettaglio con grande competenza il nostro Paolo Corazzoni di Trebi Meteo. Caro Paolo. Buonasera, buonasera Roberta. Sì, ne stiamo vedendo di tutti i colori. Ieri addirittura non hai nominato due tornado veri e propri che si sono abbattuti sul nord Italia, uno nel Pavese, uno nel Vercellese, insomma davvero ne stanno capitando in tutti i colori. Ora, ma è normale, sono normali da noi i tornado? No, bravo, esatto. Oddio, ne abbiamo avuti in passato e ne avremo ancora, però quello che si registra ultimamente è comunque un'estremizzazione del tempo e del clima, quindi fenomeni che un tempo potevano capitare ma erano davvero rari, ora capitano con maggior frequenza. Questa è la vera preoccupazione. E poi i passaggi così repentini da situazioni siccitose a vere e proprie alluvioni, perché sono anche esondati dei fiumi dopo che fino a qualche giorno fa parlavamo di fiumi in secca. C'è da dire che il mese di giugno non è così nuovo a queste cose, però questo giugno comunque delle stranezze le ha avute. Alla fine, nonostante questi temporali degli ultimi giorni, sarà comunque il giugno più caldo di sempre dopo quello del 2003, segnale che in effetti qualcosa proprio di non così normale sta succedendo, ecco, su questo ti do ragione. Nei prossimi giorni la situazione in realtà andrà calmandosi, sia per quanto riguarda i temporali del centro-nord, che saranno sempre meno diffusi, sia per quanto riguarda le temperature così alte al sud. A partire da domenica anche il sud tornerà a respirare con temperature nella norma, e settimana prossima dovrebbe essere una bella settimana estiva senza grandi eccessi, così sembra quantomeno. Però ecco, temo che quest'estate comunque ci regalerà, tra virgolette, altri momenti un po' tosti, soprattutto in termini di temperature. Credo che alla fine sarà un'estate caldina questa, sì. Proprio questo volevo chiederti, Paolo Corazzon, no? Adesso al di là dei giorni prossimi, che cosa ci si può aspettare per luglio, agosto, fino insomma a metà settembre? Beh, sì, certo. Allora, secondo quello che a Trebi Meteo insomma abbiamo capito e calcolato, perché poi è difficile andare molto in là, comunque certo, quest'estate dovrebbe fare il suo dovere. Però come stiamo registrando ormai da alcuni anni, mediamente facile che troveremo temperature più alte della norma, quindi facile che sarà un'estate calda, un luglio e un agosto piuttosto bollenti, con ancora una volta magari il nord che soffrirà di più per la lontananza dal mare. Però è una tendenza che si registra e con la quale dobbiamo ormai fare i conti, quindi estati sempre più caldi, ma non solo l'estate, l'intero anno, ormai gli inverni sono sempre meno invernali volendo. E questa è una delle caratteristiche del futuro clima italiano, temo. Grazie Paolo Corazzoni di Trebi Meteo, ci sentiamo domani allora per gli ultimi aggiornamenti, per chi non fosse presente questa sera. Ciao Paolo, buon tempo. Ciao, a te comunque sia. Buon tempo a tutti, grazie. Intanto vedo due notizie, una che arriva dalla Corea del Nord, sempre un po' diciamo guerresca, sul piede di guerra. L'ambasciatore nordcoreano all'ONU, Kim In-ryong, ha avvisato gli Stati Uniti e il resto del mondo che Pyongyang continuerà a costruire il suo arsenale nucleare indipendentemente dalle sanzioni o da eventuali attacchi militari contro il regime. Proprio ieri Trump aveva detto che ci saranno altre sanzioni per il Nord Corea. In una riunione del Consiglio di Sicurezza, Kim ha spiegato che l'amministrazione Trump sta portando avanti una politica ostile e obsoleta contro il suo paese con un atteggiamento di un'arroganza sconfinata. Quindi insomma i rapporti sempre tesi con la Corea del Nord, mentre vedo da un sondaggio oltre il 60% degli elettori americani chiede a Trump di smetterla con Twitter, vogliono che il presidente non usi più il suo account personale. Sapete che peggio di qualche diciamo rappresentante politico di un certo livello che abbiamo in Italia con queste mania per i social. Ci lasciamo adesso momentaneamente, poi vi aggiorno come sempre brevemente alle 22:00.